Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Emozionanti settimane assieme, ogni volta c'è qualcosa da dire sulla cena, o per meglio dire su quello che succede a Laos. Settimana scorsa, serata cinema, abbiamo visto Stand By Me, un film che comunque per molti contiene dei ricordi, contiene anche una prospettiva degli anni Ottanta e non solo, perché racconta una storia particolare, un viaggio particolare di alcuni ragazzini. Lo dico sempre, il motivo per cui vederlo è già vedere Jodie O'Connell grasso come ai tempi, e poi comunque un film che è rimasto nella storia epoca cult degli anni Ottanta, come sono stati tutti i film che abbiamo visto questo mese. Ragazzi, un pensiero su Stand By Me. Ispirante. Nuovo, non l'avevo mai visto. Mai visto, no. Mai visto. Ti ricorda di quell'infanzia che noi, della nostra età, abbiamo vissuto, non quella in cui dovevi per forza stare fuori, giravi, guardavi cose diverse. È vero, da poco ho fatto 18 anni e so che è molto particolare. Andrea, di una... È uno di quei film che se sei davvero giovane come me ti può venire la nostalgia di un periodo che non hai mai visto in fondo. È vero, perché proprio non hai mai vissuto, però capisci, c'erano lati positivi e lati negativi, c'era più sì. 1.0, non c'era il 2.0, quindi comunque ragazzi, abbiamo sognato assieme con questo film, questa settimana sogneremo ancora, perché ogni giovedì alle 21 dopo la cena dei regini, perché bisogna stare a casa, ascoltare la cena, quando finisce venire qua a vedere un ottimo film assieme, e continueremo con questo piccolo ciclo, diciamo così, anni 80, Breakfast Club, questo giro, quindi comunque vedremo il vero personaggio di Bender, lo dico sempre, quello che ha ispirato poi il fumetto, là, il cartone animato, e quindi conosceremo il vero personaggio di Bender. Ma inoltre, prestissimo, il 29, concerto dei La Brain e degli Ice Cream, quindi questi due gruppi musicali che si trovano assieme per suonare qui all'House of Bach, una serata bellissima di musica, tutta regina, tutta rock, un rock indipendente, particolare, e assolutamente bisogna venire, mangiarsi una pizza, ascoltarsi il concerto. Ragazzi, di tutto, anche perché li avremo ospiti tra poco con un video, quindi gli Ice Cream, quindi... Tra poco torneremo sull'argomento. E poi il venerdì tutti i musicisti, regini e non, sono invitati qui, vengono, attaccano il loro strumento, suonano per la jam session dell'house, cioè una serata dedicata all'improvvisazione musicale, quindi la voglia che si ha di condividere la musica, imparare magari a migliorarsi assieme, stare assieme, bersi una birra, suonare e fare musica e basta. C'è una jam session aperta a tutti. Non troppo selettivo, in maniera che se tu hai scritto una poesia, se tu vuoi recitare un Amleto così al momento, puoi farlo lo stesso, e poi magari, non so, ci sarà questa commissione artistica. Chiaramente se sei un musicista, è questo il tuo momento, venire a improvvisare all'house, alla jam session. Ragazzi, il 27 c'è il live di Free Age of Camelot. Il live di Camelot, quanto sarà, cosa succederà a questo live? Ci picchieremo tutti, io offrirò da bere e poi degli altri. E poi verrò picchiato. ma no, ma dai. Ragazzi, riusciamo a fare la cogna e... ecco. Io non lo so, sfatiamo questo mito che lui è sempre picchiato, eccetera. Ho visto un video su internet, ad esempio, in cui assolutamente non vengo ammazzato di botte. No, assolutamente. Che strano. Ragazzi, il 26 torniamo indietro nel tempo, andiamo a Camelot per il live di Free Age of Camelot. Sì, 27. Il 27. E quindi, esattamente, è serata bellissima, pomeriggio assieme, in fantasy medievale, questa atmosfera particolare, combattimento con le spade, una storia che continua. La grande minaccia di questo mago oscuro che si aggira su Camelot, poi c'è chi sta cercando una pietra, c'è chi sta cercando un tesoro, c'è chi sta cercando la sposa, c'è chi sta cercando di riconquistare la memoria perduta. E poi cosa c'è il troll che ci abbiamo si anche guarda. Un vero troll che comunque sarà anche dei nostri. Ragazzi, imperdibile, prenotatevi adesso dal back.it, potete cliccare e fare subito la prenotazione online, perché è fondamentale per poter partecipare. Altro da dire, ragazzi? Siete contenti? Ovviamente. Sì. Siete caldi? Sì. No, Fred. Poi vi chiedono perché. Ragazzi, mentre noi ci dedichiamo a seviziare il nostro botolo, noi ci guardiamo adesso la nostra sigla. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, lo spazio delle notizie dalla strada. Prosegue questa puntata della cena dei regini con le notizie più strane, quelle che tu trovi sul web, o per meglio non vuoi trovare sul web, ma noi te le propiniamo per fartele ascoltare lo stesso. E attenzione, attenzione, perché iniziamo con una notizia di servizio. Giuliano, tale Giuliano San Giorgi, di una band italiana di nome Negramaro, si aggira per le spiagge italiane facendosi offrire drink e firmando autografi, ma è un falso Giuliano San Giorgi. Ebbene, è stato scoperto questo falso, questo impostore che si spacciava per questo tizio che di una famosa band italiana e si scroccava drink in cambio di autografi. Infuriato il reale Giuliano San Giorgi ha dimostrato la sua ira su Twitter con un messaggio dove apostrofava il tizio. Cioè, capisci, tu ti dispacci per Giuliano San Giorgi e tieni i drink gratis. E hai drink gratis. Perché? Perché no? Ah, no, perché considerando che un drink nelle spiagge di Rimini, il Riccione, ti costa l'ira di Dio, tipo 20 euro. Qua parliamo di Otranto, questo Giuliano falso San Giorgio si è fissato lì, ma poi pensa, tu fai, se fa a questo punto fai. Io immagino però tutti i fan che. Spiegutissimi. Che incazzati! Me lo cerco perché l'autografo. Hanno l'autografo falso tipo, e gli hanno fatto il loro drink. Idolo. Se appena lo trovano questo qua altro che fa. Non era un fatto funerale, proprio. Diventa lui il drink, praticamente. Lo mette lui in moto. Ma poi, ragazzi, al di là di tutto. Ma figlio mio, Giuliano San Giorgi, cioè, stai veramente messo. Ma era pelato, Bach, magari. Pelato. Ah, ma fai qualcos'altro. Cioè, fai Andy McKee, che è quel chitarrista pazzesco, cioè, ma no, Giuliano, ma no, ragazzi. Guarda, se oppure, la gente gli è creduto, vuol dire che c'è una certa. Una piccola somiglianza c'è. Cioè. Fan dei Negramaro, attenzione, aprite gli occhi. A questo punto io mi spacciavo per Gino Paoli e ti dicevo: hai un tablet con te, dammi 4 euro per ogni cosa perché io sono il presidente della SIAE. E quindi valeva molto di più. Ma ragazzi, andiamo avanti. La tecnologia, oltre a scoprire Giuliano San Giorgi falso, ti permette anche di dialogare meglio, perché voglio dire, ci sono i social, i messaggini, no? Lo scambio di messaggi e via dicendo, ma c'è una cosa in più adesso, come si suol dire, dillo con la musica. Questa applicazione è stata rilasciata da poco, che permette di scambiarsi non solo messaggi testuali, ma principalmente piccole pezzi, frazioni di canzoni, e quindi parlare tramite le canzoni. Che noia. Perché? Ma perché? Che serve? Mi ricordo tanto quel Transformer che parlava solo tramite le pezzi di radio. Le canzoni che ascolta lui non si capisce che cosa dicono, quindi un discorso un pochino multilaterale. Ma infatti tu pensa, uno un fan tipo dei Negramaro, appunto, che è un amico con un tizio tipo lui, no? E vuol dire 3 minuti solo e lui. Cosa tu mi vuoi dire? Ragazzi, che cosa tu mi vuoi dire? Cosa direste in musica? Una frase, un pezzo di una canzone che viene in mente adesso. Io mi devo censurare, ma viene da Marco Martini. Ah! Bella strofa! No. Abbiamo pensato tutti quanti a quella e sarà quella più utilizzata. utilizzata sicuramente. No, è più quella all'estero, penso. No, lui diceva e chi se ne frega, la celebre cover è ovvio, di Metallica. Chi se ne frega, la celebre cover, Marco Massimo. Ragazzi, ma la musica italiana, siamo proprio nel peggio della musica italiana. Quando hanno scoperto che ci sono rimaste male. Cioè, guarda, io non oso immaginare i Metallica quando è arrivata la richiesta di Marco Masini, la lasciamo stare, scritta tipo col pennarello, Marco Masini vuole fare una cover della vostra canzone, e voi avete detto di sì. Ma comunque allora è piaciuto, detto. Ah, come non hanno capito le parole, tanto la musica l'ho fatta loro, le parole magari sono più alte. Dramma comunque la musica italiana, una canzone che ci si dedica spesso, una canzone che utilizzereste spesso per comunicare. Gatti. Con quel ritmo, quel capello. Giustamente, quindi Rutti e Gatti, Sister Sister. Rutti e Gatti. Marco Masini. Una canzone che vorresti dedicare. Il Cuccino Pio. No! ecco la risposta, sarebbe questa. È la prima cosa che mi è venuta in mente. Dopo questa prenderai il posto del popolo. Cuccino Pio per dire cosa? Per dire per favore muori. No, ti odio, sentila. La gallina cosa? E poi l'odio, l'odio per questa cosa. No, sinceramente non lo so. È passata, ragazzi. No, c'era anche la versione alternativa, quella benevola, dove si può. Io sono riuscito ad arrivare alla fine. Dopo 10 secondi. Meglio così, ragazzi, meglio così, perché già abbiamo distrutto la musica italiana, adesso anche uno sconvolgimento nella cucina italiana. È un classico, tutti l'abbiamo assaggiata con l'antico mito che voleva che l'origine fosse da questi lavoratori che andavano nei boschi a produrre carbone e si portavano uova, guanciale e pecorino per fare questa pasta, da qui si dice che fosse nata la carbonara, e invece no, perché pare che la carbonara in verità sia americana, che sarebbe parte della famosa razione K, che un biologo statunitense aveva ideato per dare una dieta adeguata alle truppe americane. Quindi una dieta adeguata è la carbonara. Beh, un eccesso di carboidrati. Forse leggera per i loro canoni. Americani, cioè. Pensa, questo tutti i soldati si ammazzano a carboidrati. Quindi. E quindi è giusto che sia così. Però non penso che sia americano. Gli ha dato semplicemente uova, pancetta e formaggio. Penso di essere una pasta. Tuorlo d'uovo in polvere, bacon e spaghetti per aumentare le dosi. C'era tutto, era una carbonara chiaramente 1.0, però funzionava assieme allo strumento. Ovviamente non è buona come quella che ti fa qua, però. No, sto scherzando, era. Beh, sicuramente il ottimo. Problema dei soldati è. Ma razioni in caserma o razioni sul campo? No, la razione campo era usata ovunque. Per dare comunque il loro supporto calorico durante le. Giustamente, se tu devi minacciare dei poveri innocenti con del materiale bellico che costa milioni di dollari, hai bisogno di queste cose, no? Di forza. E la razione K serve esattamente a questo. Adesso con l'uso dei droni possono anche comunque evitare. Ma non è K per i droni. Dimmi a casa e mangiarsi il droga bello tipo cheeseburger. Vedi, sto elicotterino contro i miei tagliatori che si mangia la carbonara. Per conquistare il mondo mangiate la carbonara, questa è la cosa. Ah, e poi ditelo che lo fate per la democrazia. Ovvio. Altrimenti. Cioè, mangiamo carbonara per la democrazia. Perché voglio dire, è importante, ma ragazzi, un mito che si sfata, un mito invece che si va a creare. Pensa che nel 1997, in quella che fu definita la tempesta perfetta, al largo della Cornovaglia, una nave della cosiddetta Tokyo Express perse dei container, in cui molti di questi container venivano trasportati dei Lego, e questo ha creato quella che si potrebbe definire lo sbarco infinito dei Lego nel mondo. Praticamente c'è ancora questa massa di Lego che naviga negli oceani e ogni tanto finisce su qualche spiaggia, però sono talmente tanti che ci sarà un flusso continuo di Lego ancora per un tempo illimitato. Dal 1977 ancora ci sono questi sbarchi, essendo che comunque sono pezzetti di diverse dimensioni eccetera, poi chiaramente le correnti fanno il loro gioco e quindi non è possibile neanche determinare quando finirà o dove andranno a finire questi pezzetti di Lego, che quindi vagheranno negli oceani per sempre. Vedi che arriva a qualche spiaggia una barchetta di Lego fatta dei pesci. I pesci che si sono costruiti il sottomarino con Lego e stanno conquistando il mondo facendo finta di essere americani, ma ragazzi facendolo per la pace, pace e democrazia anche noi. Ragazzi, cosa c'è di più bello che un bel rapporto di coppia? Lo sanno in tantissimi, no? È bellissimo quando c'è sintonia, quando c'è, quando si sta bene assieme, quando soprattutto c'è la fiducia, bravi, fiducia. Avreste la fiducia di farvi spiare totalmente dal vostro partner? Che senso? Spiare totalmente, se tutti gli sms, le chat, la posizione GPS del vostro cellulare fosse a disposizione dell'altro partner? Sì. Sì, sono d'accordo. Lui è più titubante. non è per lei, perché mi dà molto fastidio che si invada la mia privacy, però... Esatto, invece c'è questa app che permette di fare esattamente questo. Fagli installare così. Ovviamente scherzo. È un'app che però esiste veramente, fu creata per seguire gli spostamenti dei ragazzini grazie sui cellulari dei genitori, quindi tu lo puoi seguire così, installi questa roba sul cellulare e lo mandi in giro per il mondo a drogarsi come fanno tutti, però poi è diventato un'applicazione per spiarsi nelle coppie. Immagina già la perversione di scaricare quest'app e di metterla nel cellulare della tua fidanzata. Mi metti il cellulare che devo fare una chiamata? Perché poi è come, sai le radio per ascoltare i bambini, no? È come se tu fai, ah cara, dove vai stasera? Puff, e gli metti la radio nella borsetta e poi stai a ascoltare tutta la serata, cosa fa? Sconvolgente. Ma questa app permette di scambiarsi, perché deve essere condivisa, SMS, posizione del GPS, i vari messaggi di chat, praticamente tutto il controllo di quello che avviene tramite lo smartphone. Come funziona, scusa? Quindi si deve fare Tipo una crosscam, oppure semplicemente arrivano i messaggi. Permette di monitorare ogni azione svolta sullo smartphone. Ci sarà questa sicuramente una linea. Sì, facciamo, lo scarichiamo questa settimana, lo proviamo. Vediamo com'è. L'abbiamo incastrato. Ma lei arrivano soltanto i messaggi che mi arrivano su Facebook, no, da voi. Anche io sono tranquillissima, perché uno non ha niente da nascondere, tutto quello che faccio lo dico. Che... E quindi comunque. Quindi non ho tutto questo grande problema. No, io sono curioso. Proviamolo, almeno mettimi in pratica. Io sono curioso di sapere come funziona. E quindi è un capo, spiare il proprio partner, sapere cosa fa, dove va, con chi parla, con chi chatta. Che ansia! Fantastico. Bisogna... Però con Panda per fare in modo che di essere sicuro che non mi tradisca. Ah, ecco, vedi, può essere anche una cosa a livello amichevole. Cioè, l'applicazione può avere anche una cosa positiva, cioè nel momento in cui comunque rimane con la macchina, succede qualche cosa di... Uno sa sempre dove si trova l'altro, no? Se io rimango con la macchina, ti chiamo e te lo dico, sono rimasto con la macchina. No, ma succede una cosa più grave. Ti rapiscono. Vabbè, ma il fatto è che per quello ci sono altri tipi di programmi di edizione. Questo qua ti fa leggere i messaggi dell'altro. No, tutto. Messaggi, tecnologia delle chiamate, aggiornamento della rubrica, perché giustamente se becca qualcuno. Hai aggiunto una ragazza. Crack. Stavo vedendola, tra l'altro, è bellissimo lo screen iniziale sulla pagina dove la scarichi. Condividi con la tua amata. Con la persona che ami, chiamate. Sì, sì, sì, come se fosse una cosa così. È fantastico. Vabbè, aggiustato il marketing anche per questo. Però è carino il fatto che nacque come. Come dispositivo di ragazzi, e poi c'è stata questa perversione. Penso che al momento sia tutto illegale, non so quanto ci sia di. No, non credo, perché essendo condivisa e quindi accettata da entrambi. Non è illegale, perché il punto è che tu devi mandare la richiesta all'altro telefono, e l'altro telefono la deve accettare. Deve accettare, e poi sei tu che nascosto nel bagno nella tua piazzata. Però è condivisa, quindi ma non so fino a che punto. Gli americani lo usano anche per controllare le persone. Può essere tutto a questo punto. Ragazzi, l'amore è anche questo, ma è anche il momento, si sa, di un ricordo, una traccia, una sensazione. Gli americani ci hanno pensato già da un po', adesso è arrivato anche in Italia, anche in Europa, nello specifico in Italia, grazie ad un imprenditore italiano, la possibilità di trasformare le ceneri dei propri cari in diamanti. Quindi le ceneri, cioè il tuo muore, ho capito, cellule, non so, ex cellule, adesso ceneri, e le puoi dare a questa ditta, che le manda nella zona della Svizzera per circa un mesetto, tra 1 a 6 mesi, e ti restituisce un diamante fatto con le ceneri. Benissimo. Del tuo tu cane. Devi spedire. Beh, le ceneri, no? Sì. È sicuro che ti rimandano tipo il fratello e la fidanzata di un tizio disperduto tra me metti, metto tutti insieme e sono un ricordo per un diamante, cioè. Boh, sì, allora è un diamante, il problema è che se lo confondono con un tizio che era un po' più corpulento, ci guadagni anche, perché anche in base alla quantità di ceneri che tu mandi, più grande è il diamante. Io metto qualche commento. Pensa alla vedova, la cosiddetta vedova inconsolabile, che adesso avrà il diamante. Gente che sterminerà la propria famiglia. Diamanti, diamanti. Bene, dov'è tuo marito? Diceva, era interessante. Bello, io immaginavo che bello suo diamante. È mio marito. Te l'ha regalato, ma no, è proprio mio, no, marito. È lui. Ah, non te l'avevo detto, adesso. Tra l'altro questo imprenditore qui, le onorazze funebri, che fa questa cosa qui, so che è anche diventato molto famoso perché aveva delle campagne pubblicitarie molto particolari. Sì. Contro, che so, gli incidenti stradali, tipo non bere se non arriviamo noi, queste cose, c'erano manifesti molto giganteschi che tappezzavano. Sì, è molto. Come messaggio? Io avevo detto, bello, vai. Avevo detto uno slogan di questo qua, forse mi sto sbagliando. Mm-hmm. Diceva: adesso tuo marito non potrà dirti di no. Esatto, è lui. Queste cose. È a metà tra il malato di mente e un genio. Non mi ricordo questa cosa. Infatti. Se guardiamo tutte le pubblicità con i doppi sensi, ce ne sono molto diverse. Ok, ma questo è proprio malvagio. No, ma questi sono geniali, guarda, hanno delle sparate. Pensa, ma ragazzi, comunque adesso angolo, diciamo, un po' rosso, da bollino rosso, ma soprattutto per gli uomini facciamo un grande respiro preparatorio per quello di cui andiamo a parlare. Ovviamente la notizia viene dalla Cina. E lui si chiama Zhu Chengli. Zhu Chengli è specializzato nell'arte del, immagino si dica, Tie Dang Gong, che Panda conosce. Ovvio. Cos'è il Tie Dang Gong, ragazzi? Suona malatissimo. Suona Tie Dang Gong? No. Tie Dang Gong? Suona come una delle discipline Shaolin in cui c'è una specie di contorsionismo allucinante, poi non so. Non proprio, però così il Tie Dang, questo suono Dangong. Suona i cappanelli, che fa? So ciò che c'entrano le martellate e c'entrano le palle. Esatto, perché lui adora proprio colpirsi le parti basse. Mamma, lo sapevo! Asiatici, lo sapevo! Ma quello che fa lui è ancora più particolare, la disciplina è proprio nel diventare praticamente capace di assorbire i colpi in quel punto, e lui addirittura fa anche delle riprese durante la sua ginnastica quotidiana, perché bisogna allenarsi col Tie Dang Gong, e quindi va al parchetto locale, flette i muscoli, fa stretching, usa gli attrezzi che sono là a pubblica disposizione e poi per proseguire si colpisce gli Zebedei con un martello, un peso di piombo e un mattone. C'era un personaggio che prima o poi si romperà le palle di fare queste cose tutti i giorni. Quanti figli ha? Ah, già. A me invece ma c'era un personaggio di altro Giovanni e Giacomo Tafazzi, il mitico Tafazzi, il mitico Tafazzi. È proprio questa disciplina, il Tie Dan Dong, che significa in effetti pene di metallo o inguine di ferro. È proprio una delle forme più utilizzate nel Kung Fu, pensa tu, perché giustamente non potendo colpire quella parte là in maniera istituzionale si rende più forte per... Però se ci pensi è giusto essere neanche no. quella parte no. Perché... no, dipende ti come spiego, perché tutti, cioè tutte le arti marziali che comunque nella mia ignoranza comunque bene o male so e conosco allenano tutte le stesse parti del corpo, l'unica parte che è lasciata nelle mani dell'avversario è proprio quella la parte delle mani dell'avversario, quella parte non si lascia nelle mani dell'avversario. Vedi perché ci vuole il bollino rosso. La prima cosa che ti insegna il corpo arte marziale è di stare orizzontale. La prima. Nel senso che lascia la mercé dell'avversario. La lasci nelle mani del tuo avversario. No, vabbè, nel senso che lasci la mercé dell'avversario è proprio quello. In tutti i film qual è in tutti i film, quale parte gli avversari colpiscono quando uno è fortissimo e non sanno più dove menarlo? Là. Quindi è giusto che uno faccia sport, faccia muscolo anche la là. Minima idea del dolore che si prova. No, ma infatti è la teoria che dice lei è quella proprio, diciamo, seguita dalle antiche scritture dell'allenamento dei guerrieri di Kung Fu, perché dicono giustamente è la parte più debole e quindi è quella che dovrebbe essere rinforzata di più. Addirittura le antiche scritture ci insegnano che dovremmo anche essere capaci di sollevarci pesi, trascinarci camion e farci penzolare ragazzini. Farci penzolare ragazzini forse è meglio non dire. Guarda, ci sono alcuni pezzi che stanno già applicando questa teoria. Ragazzi, l'antica scrittura del Kung Fu è... La cosa peggiore è che in cinese pene si dica Dan Dong. È davvero... non lo so. Però penso quanta tonicità c'è in quest'uomo che ogni giorno si martella con guarda Bacchino, il mattone. Preferisco anche gli allenamenti in questo caso. Sinceramente. Preferisci... Prima o poi si romperà le palle anche lui. Come ci insegna Tenacious D, un sollevamento sul cielo al giorno. È vero. Ma poi l'altra cosa che mi fa stanca, lui fa questa cosa al parco sotto casa. Bravissimo, quello che stavo dicendo. Cioè la gente passa e vede questo con martelli, mattoni e poi si colpisce. Immagino quello ignaro che tipo si fa la selfie al parco e dietro si vede questo e compare sulla penso che ce l'abbia Viola. Ragazzi, è la magica Cina. C'è la carcerebacco.it per commentare anche questa puntata e queste notizie. Ragazzi, i vostri allenamenti pazzi, quali potrebbero essere? No mattoni, no mettere in mano al vostro avversario cose che servisi in futuro. Noi torniamo dopo una piccola pausa musicale. Are closed now, and I'm freezing in place. You're not watching, I'm cheapening myself. Wouldn't go there where I spent my bedlam days. You never went there. Don't explain because I'm leaving soon. Chances were in our favor when you don't speak. saying it again. And then you will shoot for trouble all over LM. First you kiss me, then you push me away. I'd love to take time. You are stuck in delays. You wouldn't go there where I spent my bedlam days. Now you're sorry, but I whisper it's too late, because I'm leaving soon. Chances were in our favor. When you really don't mean it, you'll be saying it again. And then you will shoot for trouble all over LM. L'angolo della classifica, quindi 10 punti già scottanti di per sé, ma ci sono grandi amori che sbocciano dopo un'amicizia, quei grandi amori passionali, straordinari, fantastici, che durano tutta una vita, c'è chi dice anche per sempre, quegli amori descritti in mille poemi, libri, canzoni, film e baci perugina. Ma ci sono anche quelle storie che finiscono molto male o si limitano semplicemente a un'amicizia. Nell'era 2.0 questa cosa ha anche avuto un nome tecnico, è quella di friend zone, cioè che vuol dire che tu hai questo filarino, come si diceva una volta, il filarino, lei ti dice no, oppure lui ti dice no, però resterai comunque nella sua lista delle amicizie in una maniera abbastanza blindata, che ovviamente non ti dà accesso al sesso. Ma adesso è la numero 10, parliamo delle 10 frasi peggiori. Prima che la friend zone non esiste. Relativamente, Andrea. Perché? Non esiste. Relativamente. Perché se una ragazza ti dice no, tu dici ok e cerchi altrove, non sta lì a dire no, ha frenzonato. Io sono stato carino con lei e lei non mi ha messo né, lei non è stato con me. No, aspetta, ci sono cati e cati. Sì, ma le ragazze non sono distributori. Metti la gentilezza e ti esce la figa, capito? Lo so. Però Andrea, ci sono cati e cati. O no? No. No, per te invece è così. È così. Sei divertente solo quando sei maschilista. E comunque andiamo avanti, perché la friendzone esiste, ti becchi il 2 di picca e ti stai zitto. È per questo che la friendzone non esiste. No, ti becchi il 2 di picca. E stai zitto, che sei lì che continui. Poi io Luca e Valeria abbiamo visto prima un esempio friendzone. Un ragazzo che vestito da maggiordomo di Lara Croft che andava in giro con il cattoietto dietro alla Croft. Che era due film. Ed era una sfilata di cospe, diciamo, e poi sembra chissà che cosa. Ragazzi, quindi hai il rifiuto e poi resti per lei. Non è un discorso, cioè, di come ti visualizza lei, non ti visualizza come oggetto sessuale oppure oggetto del suo desiderio, ma come semplice, pure semplice amico. Della friend zone, cioè tu puoi avere altre aspettative, puoi guardarti altrove come giusto che sia, eccetera, però vedi, capita anche questo, ma ci sono le 10 frasi peggiori, quelle che fanno più male da ascoltare come, come dire, introduzione o deterrente verso la friend zone. Al numero 10, sei la persona giusta, ma al momento sbagliato. Questa frase, sei la persona giusta però al momento sbagliato, perché quando le cose non coincidono magari è tutta una serie di tempismo. Certo, quando a fine serata le ha offerto la cena e le hai già pagato il conto, lei ti molla questa sentenza: sei la persona giusta non al momento giusto. Poi il giorno dopo è con un altro, ma non dettagli. Vabbè, no, questa è la persona giusta al momento sbagliato, perché ci sono anche momenti e momenti, però evidentemente ci sono cose che trascendono da questo amore eterno. La numero 9, drammatico ragazzi, drammatico: ho paura di perdere la tua amicizia. Perché? Perché? Andrea, concorderei con me che però esiste o meno sta frase è vera. La friendzone non esiste, la donna guarda. Vedi, quando è maschilista è più divertente. Quindi dai, non voglio perdere la tua amicizia, perché amarsi è come odiarsi, forse, quindi non si può essere anche amici. No, ancora peggio è non voglio che si rovini l'amicizia. Però è vero, cioè a me è capitato per esempio che un ragazzo che già parte il mio gruppo, eravamo comunque amici, mi metto dai proviamo a stare insieme. Va bene, proviamo, cioè io dico così molto spiccio, però è una cosa un po' diversa. Sì, vabbè, proviamo, però tu vedi che secondo me se la cosa non va bene, vedi che comunque tra noi qualcosa cambia, perché così, cioè non, poi dici si perde tutto. Sì, secondo me poi quando realmente non vanno le cose bene, come poi è successo, le cose tra di noi si sono un po' inclinate, cioè noi abbiamo anche tentato di tornare come prima, però non è fattibile, cioè non è più fattibile, perché poi se si avvicinava faceva tutta panda e ci provava con me, lui era sempre là a guardare. Ah vabbè, vedere. Quelli sono, quindi comunque non potrà mai tornare, perché è rimasto nella fase che diceva lui, insomma, un po' astioso. Però, guarda, però 70% delle volte c'è anche da dire che anche tu gli hai detto non proviamoci, ma a prescindere dalle cose sarebbe rovinato comunque. Sì, sicuramente, però comunque anche se io dico io e te, cioè proviamoci, però vedi che va male, lui mi ha detto sì, non ti preoccupare, anche se va male noi restiamo amici. Ma quella è un'enorme bugia, è ovvio che è una bugia. Appunto, infatti andando male. Sì, anche perché voglio dire, una volta che ti sei esposto, che ti ha detto le cose, a prescindere che tu non accetti o meno, invece guarda, la cosa vale. È bruttissima, è che la friendzone esiste, ma esiste quasi solo ed esclusivamente per gli uomini. Relativamente, guarda, dipende dai casi. È molto più probabile, perché quando un probabile si diverso innamora, si fissa, cioè gli viene l'ossessione. L'ossessione ti porta a stare lì, quindi nel momento in cui lei dice no, restiamo amici, tu dici a qualsiasi cosa va bene e basta che sto lì vicino. Mentre se è la donna e si trova in quella situazione, è più facile che riesca a superarla. Solitamente sì, perché comunque, ma diciamo che è anche un po' vero che è la donna che decide al 90% dei casi attualmente. Questo sicuramente è vero. Però guarda le donne che si fissano. Sono molto peggio degli uomini, molto. Ma quelli diventano stalker, non c'è cosa. E tu vedi che per caso trovi un'app sul tuo cellulare che ti chiama MK. Io sono una di persone sane di mente. Nessuno è sano di mente. Donne, nel senso, no? Passiamo al numero 8, perché giustamente dopo mesi di messaggi, gentilezze, affetto, regali, messaggi su Facebook, se non su WhatsApp, se non su vari social e quant'altro, arriva la frase numero 8: scusami, devi aver capito male. No. sai quanto devi aver capito male, sai quante imprecazioni sto trattenendo per non adesso le beccherai tutte tu, no Vando? No, Questa no. Ma, anche, ma non tutte, comunque c'è da dire che una cosa del genere è orribile a sentir dire. No, cioè io immagino. No, perché tu stai facendo la cosa giusta, cioè si immedesima nelle frasi. Cioè tu immagina dopo mesi e mesi. No, scusami, devi aver capito male. Sì, ma la frase da sola non è niente, è il contesto che dici che effettivamente succede. Questa è una di quelle che succedono più spesso. Cioè, certo. Che stai lì per mesi, posta e mesi questa. A mandarsi tutti i messaggi. No, no, vabbè. E poi no, allora, deve capire. I doppi sensi, le cose. Sì, l'ambiguità è bruttissima. Tipo... Penso che chi diceva una frase del genere ha proprio la voglia di mandarla a quel paese nel... In tutte le lingue che conosci, anche quelle non conosci. Ho capito male, perché capito male, perché voglio dire. Tu vedi che va su Google Translate, comincia a dire tutte le parole vocali che conosci, gliele manda. Perché hai capito male? Peccato perché tra tutte le cose che si possono dire, tra tutte le, anche le scuse, le bugie che si possono dire, questa è la peggiore che ti ha venuto. Perché ti sta dando la colpa a te, capito? Sì, esatto! È colpa tua, no, io non ho fatto niente. Perché racchiude sia il negativo che anche poi la stoccata. Avevi capito male tu, perché voglio dire. Io no, io. Ah, capisci? Tipo, gli mandi 100 rose rosse, ma hai capito male tu, perché. Vabbè, comunque. Ragazzi, alla numero 7, perché adesso anche la friend zone nasce come definizione nel 2.0, no? È un capitolo a parte, sarebbe da dedicare solo alle friendzone attuate, diciamo, iniziate su WhatsApp. Famosissimo WhatsApp, la WhatsApp friendzone, la numero 7, che poi si può sviluppare in tantissimi modi, ma soprattutto, esempio classico, non c'è una frase vera e propria, ma semplicemente un messaggio, magari affettuoso, che tu hai dedicato ad altra persona, che si conclude con visualizzato nel... tot senza mai una risposta, e quella è la friendzone. La friendzone inizia anche così su WhatsApp, capisci? Lettere ignorate, messaggio visualizzato e mai risposta. Perché una volta magari mandavi un sms, gli mandavi una lettera e magari avevi il dubbio, non l'ha ricevuta. Con quella è proprio la sicurezza e l'ha ricevuto. Mm-hmm. E rimani tipo Andrea, parla anche vabbè tu. Ma lì è comunque, come dire, è drammatico perché no, ragazzi, non è una friendzone, perché alla fine semplicemente non ti ha risposto, non ti ha voluto rispondere, motivi. è peggio è ancora capito, però quasi parla del messaggio in cui tu ti, tra virgolette, ti dichiari, cioè tu stai dicendo va bene, io voglio stare con te, ma tu vedi che lei ha visto il messaggio e non ti risponde. Quella che viene definita friendzone è quando tu ti dichiari e lei ti fa capire che sei solo un amico. Quando non ti risponde, semplicemente non è piatto tuo, capito? No, perché... comunque non è che ci rimani amico dopo, no, che tu ti sei dichiarato, no, e non ti ha cagato. Invece no, perché poi sai che va avanti la cosa. Cioè tu la vedi, magari uscite insieme, cioè avete amicizia in comune, la vedi, e lei si comporta come se non fosse mai successo. Tiro! Questo è troia, la è successo, è troia. Parlo al femminile perché sono maschio, non perché Tiro, è successo anche a me. Cioè, cioè una persona mi mandava messaggi particolari e io lo ignoravo. Andrea, non ridere. Andrea, dai. Non usate persone che potrebbero essere riconducibili, che guardano magari la cena, non si sa. È finita e basta. Si è ancora amici e si è messi insieme. Lasciamo stare. Ma ragazzi, alla numero 6, una frase storica, penso che sia tra i grandi classici. Di quelli che una volta si chiamavano i due di picca, adesso friendzone. Ti vedo come un fratello. Ti vedo come un fratello, perché giustamente tu sei stato là a tampinarlo, a dire le cose, eccetera, e lei ti vedo come un fratello. Il che vuol dire che o non ci sai fare tu, e quindi oppure hai degli strani rapporti col fratello. Perché questo sì. Ricordate ai bambini che l'incesto è illegale. Non in Giappone. Chissà perché. Giapponesi è questo, quanto dire. E quindi ti vedo come un fratello, per cui dire questo affetto che però non... Anche questa alla fine è un'enorme cavolata, perché cioè, va bene come un amico, perché alla fine... però come un fratello è proprio... Poi io tipo prendo una spada e lo infilzo tranquillamente, perché comunque avere un rapporto con un fratello vuol dire essere più di un amico. Ma non arrivare a tal punto di essere così neanche come ragazzo. Esatto. Ma è solo come membro della famiglia. E quindi abbiamo anche da qui capito che il sesso è la grande discriminante dei rapporti sociali. Essenzialmente è lo spartiacque tra tutti i rapporti sociali. Ma la ragazza numero 5, altro drammatico classico dei due di picche. Frasi, controfrasi, dichiarazioni, eccetera. E poi lei che ti dice: sono innamorata di un altro. Cioè, la svolta drammatica quando tu sei là a dirle, ma sai, io, te, noi due assieme, eccetera. Ma lei no, lei pensa a Giulio. Però là, scusa, almeno è sincera. Cioè, in quel momento, comunque, non è che ti dice, no, ti lascio perché sei come mio fratello. Certo. Perché in quel momento, comunque, dice la verità. No, guarda, non è... Ma mi piace un altro. Almeno è apprezzabilissimo. Secondo me è giusto che non dare forse speranze, se... Mi piace. Il problema è perché altro che in questo caso ha dato false speranze in precedenza e poi al momento viene a vedere quale caso è giusto, perché nel caso tuo, cioè nel caso di quello che dici tu è giusto, ma se come dice lui invece ha dato false speranze, sì, vedere da come è partita, da dove parte la storia, capito? Perché metti, ha buttato l'anno e poi gli ha lanciato via tutta la canna da testa. Sì, dico, però devi vedere da dove è cominciata la storia, perché certo. Se la storia è cominciata con i precedenti punti di vista, nel senso che tu mi hai preso in giro fino all'ultimo e poi all'ultimo mi dici dopo messaggini con doppi sensi, all'ultimo dici no, mi piace un altro, allora è una bastarda. Però se lei dice guarda, mi piaci, io metto quello e dice no, guarda, mi piace un altro, allora è giustissimo, è giusto. Certo. No. L'importante è visualizzare che lei è stata sincera con te, il fatto che tu la stai odiando in quel momento, gli occhi rossi di rabbia. Mi è piaciuta la metafora di Panda. Però, e vabbè, lui è sempre avanti. Ma poi tra l'altro, ragazzi, andiamo avanti con la numero 4. La numero 4 è quel momento in cui, dopo magari qualche confidenza, qualche affettuosità, diciamo così, arriva quest'altro grande classico dei due di picche. Alla fine non sono pronta per una relazione. Con perché te. Perché cioè, è tutto questo, no, non lo dicono questo. No, parte generico, insomma, per una relazione in generale, poi dopo una settimana sta con un altro, tipo una cosa del genere. È quasi sempre così, sempre. Dicono, e poi il giorno dopo. Che puoi essere pronto per una relazione, cosa significa? Cioè, devi, non lo so, c'è un patto prematrimoniale che devi scrivere. Sinceramente non so, cioè, alla fine come si è veramente pronti per una relazione. Cioè, magari ci sono persone che ne hanno, devono avere quel tipo, quel briefing mentale con se stessi per sapere se sono pronti o meno a provare a stare con un'altra persona. Devono parlare con l'omino del cervello. È possibilissimo. Vabbè, se non si sentono abbastanza maturi da entrare in una relazione, un altro discorso. Il problema è se lo dicono e poi mettiamo la persona un altro. Questa è questa la... Perché vuol dire, quella frase è proprio come sottotitolo con te. Con te. No, però quello non viene mai detto. Cioè, se è vero, la friendzone funziona proprio per questo. Cioè, ti tengono in questa specie di stanza solo per amici. E ti tengono là perché non vogliono né perderti né farti avvicinare troppo. Ed è questo che è esattamente la friendzone. Non è dire semplicemente non ti voglio, è non ti voglio ora. Dare quella possibilità di speranza che tanto non avrai mai. Né perderti né coglierti, praticamente sei un povero fesso. Ma adesso la numero 3, ragazzi, altra frase storica, una situazione classica per molte coppie o pseudo coppie italiane, dopo varie sempre affettuosità e via dicendo: no, perché esco ora da una storia lunga. E quindi Uno non può dire niente davanti a questo. No, questo è troppo. Perché? È vera. E quindi cioè, dopo che tu stai per tre anni con una ragazza e ti lasci il giorno dopo. Tre anni con una ragazza. Io. Cioè, no, cioè, tu è un altro discorso, sei un bastardo. La relazione c'entra che magari il lunghezza e l'intensità comunque. La ferita che ti ha lasciato, il fatto che sia finita. A me è successo più di una sebbene volta. Il 54% delle volte, forse un pochino di meno. Mi è successo sia di stare da una parte che dall'altra. Appena uscito da una relazione ne ho cominciato un'altra e l'ho presa malissimo, cioè l'ho veramente. Ma noi, per esempio, io mi sono messa con te poco dopo, eh. Un anno e mezzo dopo. Ma che dici, Luca? Con te? Ah, sì, vabbè. Ok, andiamo avanti, non litigate. No, comunque, sì, no. Tu avevi intenzione di parlare di fare anche una puntata divertente, mi pare, no? Vabbè, è divertente. No, ci ho fatto i miei ritardi. Perché ti stavo deridendo, non per altro, capito? Per te è stata deprimente lo stesso. No, comunque c'è da dire anche comunque la maggior parte, una buona parte delle volte che capita questa situazione, la persona che la dice, in verità, e vuoi dire, voglio svagarmi in un altro modo, tu non sei nei miei progetti, secondo sì, me. A parte questo c'è il fatto che quando finisce una relazione che comunque è importante e ti lascia male, hai questa necessità di attaccarti a qualsiasi cosa, che siano amici, ragazze o quello che è. E poi per un attimo, il tempo di soddisfare quel momento di tristezza o di ferita comunque, e poi va tutto quanto al diavolo. Pensa su quanto sono profondi sti ragazzi. La numero 2 frase, forse la più cattiva, la più sottile, eccetera, semplice ma sottile: ho bisogno di tempo. Ho bisogno di tempo, cioè che non è né un no né un sì. È sempre tornando a quella situazione. Questa è la perfetta friendzone, cioè, non ti voglio ora. Nel senso che ti dai. Però chi lo sa, domani forse. Forse un giorno, intanto l'altro ragazzo aspetta. Nella speranza che comunque le sue intenzioni fossero. E lui aspetta. Ragazzo ragazzo, ovviamente. Ma non ero di scorta, sai. Il trucco della friendzone è sempre quello, no? Cioè quando dici, va bene, no, c'ho la persona perfetta da una parte, però mi rompo le scatole. Allora vado a trovare un livello un pochino. Quello imperfetto, così potrai costringerlo a rovinarsi la vita. Alla numero 1, ragazzi, e poi le nostre considerazioni sulla friendzone, frase che è un po', non so, ambigua, particolare, quella che è stata definita la più dolorosa di tutte: ti amo ma di bene. Bach, io a questo momento ricomincerei a citare Matini, sinceramente. Della famosa canzone. Che più volte. È come nel film di Alessandro... Ti amo di bene. Ti lascio perché ti amo troppo. Perché queste frasi? Ti lascio perché ti amo troppo. Dal mitico film... Cioè, Siani. Come, sto cercando di carburare l'elemento della frase ti amo di bene per darle un la bimbo minchiata, capito? Perché quando la sentivo io, tipo quando andava di moda nel 2000, grazie a Federico Moccio, Federico Moccio maledetto, ha rovinato la generazione. Cioè, vabbè, la prima volta sentì nel 2009, ma era una cosa carina da dire tra amici, non era una un invece no, col tempo ora la sto proprio usando in questi casi. Cioè la ragazza carina, nel senso, cioè ti dici ti voglio benissimo, però mettiamo i paletti. È bello, ma è brutto, come dice ti amo e in quel momento ti accende la speranza di bene. Esatto, quando c'è il picco e poi altro. E questo lo trovo fantastico, soprattutto tutte queste frasi che, cioè, essenzialmente quando tu trovi una persona che ti intriga e ti piace, secondo me una persona che usa termini come ti amo di bene, io la scatterei a piano. No, ma dalla prima volta che senti una cosa del genere, dico, se tu veramente incontri una persona che ti sa intrigare, sedurre, attrarre, volere bene, stare accanto e via dicendo, cioè sinceramente, ma anche se sei stata con un serial killer prima, cioè mettici una pietra sopra, nel senso, vai avanti ragazza, no? E invece no, la friend zone, ragazzi, abbiamo parlato a questa puntata, c'è una @bac.it per commentare e parlare delle vostre friend zone, parlare anche dei poveri sciagurati che state tenendo lì lì con la friend zone per fare vedere il vedo non vedo, il do, ma soprattutto non do. E adesso, ragazzi, chiudiamo questa puntata della Cena dei Regini salutando dal Bac dei ragazzi della Cena dei Regini con un applauso. Ci vediamo settimana prossima in Bac.it per tutti gli aggiornamenti su quello che si combina. Un saluto a tutti dal Bac. Ciao! Ciao!